2024 2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, questa è la nuova puntata di 2024, benvenuti o bentornati. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, 2024@radio24.it. Potete utilizzare anche Facebook oppure Twitter. Tra poco le nostre digital news. Nel corso della nostra puntata parleremo di applicazioni, servizi, di uno in modo particolare, ma parlando di uno parliamo di fatto dell'evoluzione di un settore: servizi o applicazioni per prenotare da smartphone, da web in generale, da un computer, un ristorante. E uno dice: ma perché dovrei prenotare un ristorante con un'app? Magari siamo in giro, troviamo un ristorante su una mappa oppure da una recensione possiamo prenotare un tavolo. E poi parleremo anche di realtà virtuale, un grande tema, un mega trend di cui si discute molto nel settore della tecnologia. E sarà con noi anche Stefano Quintarelli per parlare di uso consapevole della tecnologia. Visto che Stefano Quintarelli usa uno smartphone, un telefonino con la connessione dati disattivata, uno dice: ma perché? Lo scopriremo tra poco. Adesso le nostre digital news. Digital news. Iniziamo da una notizia che riguarda Telecom Italia, che rinnova e rilancia Team Vision, il servizio di streaming video che offre sia la possibilità di vedere un numero illimitato di film con un abbonamento mensile, sia la possibilità di noleggiare o acquistare il singolo film. Parliamo di film, ma parliamo anche di altri contenuti. Naturalmente il servizio è aperto a tutti, ma per i clienti Telecom ci sono alcuni vantaggi, come la possibilità di usare l'app su rete mobile senza erodere il monti dati mensile. Questa è una cosa che esiste anche con Team Music. Per il momento non ci sono norme specifiche che vietano questo tipo di servizi, ma naturalmente alcuni dicono che questo tipo di servizi vanno contro la cosiddetta neutralità della rete. Ne parleremo presto, è molto interessante. Digital News. Asso Telecomunicazioni Astel, che è l'associazione che rappresenta fra gli altri gli operatori di telecomunicazioni, contesta gli ultimi dati Istat che dicono che nel biennio 2011-2012 i prezzi della telefonia mobile sono aumentati dello 0,9%. Secondo l'associazione, invece, se si tengono in considerazione tutte le offerte e le promozioni che sono nel tempo diventate strutturali, fra il 2011 e il 2013 i prezzi si sono quasi dimezzati, con un calo del 46,7%. Digital News. Agli operatori di telefonia mobile si possono contestare molte cose, ma è indubbio che i prezzi negli ultimi anni si siano abbassati molto, e se uno gira il mondo scopre che in molti paesi, anche quelli che sembrano a più basso costo, ci sono prezzi della telefonia mobile molto alti. Prima di tutto negli Stati Uniti, dove il prezzo è veramente molto più alto rispetto all'Italia e all'Europa in generale. Allora, quasi un anno dalla presentazione, arriverà sul mercato la prossima settimana in Europa il primo smartphone con il sistema operativo Ubuntu. Si tratta dell'Aquaris, uno smartphone prodotto dalla spagnola BQ, che in questo caso ha un diverso sistema operativo rispetto ad Android, che in questo caso appunto ha Ubuntu. Costa 170 euro, si acquisterà solo tramite, in modo molto particolare, vendite flash su siti web temporanei che verranno annunciati tramite i canali social. Digital News. In attesa dell'Apple Watch, l'orologio di Apple, in attesa che arriverà tra marzo e aprile, allora, in attesa anche di capire se quello degli smartwatch sarà un mercato o un flop, si aggiunge alla lista dei nuovi prodotti anche la svizzera Swatch. Il nuovo orologio smart arriverà sul mercato fra 3 mesi, avrà NFC, sarà compatibile con Android e anche con Windows e si potrà connettere ad internet. Digital News. È stato sequestrato circa 2 mesi fa dalla polizia svedese, ma è già risorto allo stesso indirizzo, The Pirate Bay, il sito più famoso al mondo per la ricerca di torrent o altri contenuti pirata, a conferma del fatto che la lotta contro la pirateria è molto molto molto complicata. Digital News. Ultima notizia riguarda l'Agenzia Federale Americana che regola il settore delle telecomunicazioni, ha diffuso una bozza di regolamentazione sulla neutralità della rete che potrebbe essere approvata entro fine mese. L'orientamento generale è che l'accesso ad internet dovrà essere aperto e senza discriminazioni. un orientamento che inevitabilmente influenzerà il dibattito in Europa, che al momento è in corso fra gli Stati membri, 28 Stati membri dell'Unione Europea, che formano il Consiglio Europeo, un tema che poi andrà condiviso con il Parlamento Europeo. Prima di parlare di un nuovo servizio che è nato in Italia per prenotare ristoranti via internet, questo è un mega trend molto interessante, una notizia che riguarda i processori e il mondo degli smartphone, molto interessante. ARM ha presentato questa settimana un nuovo processore per smartphone e tablet. Allora, intanto diciamo che cos'è ARM. È una società inglese, britannica, che progetta architetture per costruire processori. Quindi questa società fa il design, quindi il progetto del processore, non produce il processore ma vende le licenze ad aziende come Apple, Samsung, Huawei, aziende che producono processori, ad esempio Qualcomm, che è uno dei più grandi processori, produttori di processori al mondo per telefonia mobile. L'architettura ARM è l'architettura più diffusa sul 95, insomma quasi tutti gli smartphone e i tablet che noi abbiamo hanno processori basati su questa architettura. Un'azienda molto, molto interessante, molto sana, fattura circa 1 miliardo di euro. Allora, la cosa interessante è che secondo ARM questi nuovi processori, che saranno disponibili dal prossimo anno, consumeranno il 75% in meno rispetto ai prodotti del 2014 e avranno prestazioni 3,5 volte superiori. In mancanza di batterie più performanti, questo attualmente è l'unico modo per allungare la vita dello smartphone, quindi la vita della batteria, risparmiare meno energia avendo prestazioni migliori. Comunque è incredibile, sono incredibili questi dati, il 75% consumerà in meno rispetto ai prodotti che attualmente sono disponibili sugli smartphone. Saluto Almir Ambeskovic, che è country manager di TheFork.it. Benvenuto a 2024, anzi bentornato, perché noi ti abbiamo ospitato un po' di tempo fa quando tu lanciavi Restopolis, poi ne parliamo. Bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Partiamo da The Fork, esatto, che significa la forchetta. Esatto. Che cos'è? È un servizio di prenotazione dei ristoranti via web e via smartphone, leader in Europa con oltre 20.000 ristoranti, e da qualche giorno è stato lanciato in Italia, dove conta più di 5.000 ristoranti. Quindi insomma c'è una forte presenza italiana. Benissimo, allora uno potrebbe chiedersi, ma come sbarca in Italia un nuovo sito internet e ha già 5.000 ristoranti? Questa è la fusione, il risultato della fusione di due servizi che facevano la stessa cosa, giusto? Esatto, sì. Diciamo che The Fork è una società di TripAdvisor, sono state acquisite due startup italiane, ma più che chiamarle startup ci tengo a precisare che erano due principali player per quanto riguarda Booking Online in Italia, che sono MyTable e Restopolis. Quindi l'asse di queste due aziende è stato fuso e ha dato vita a The Fork. Questo è il motivo per cui abbiamo così tanti ristoranti, questo è il motivo per cui non partiamo da zero, ma partiamo già da anche una base utenti molto, molto forte. Tu hai fondato, quanti anni fa, Restopolis? Restopolis, fra qualche giorno saranno 4 anni. In 4 anni avete già fatto la così, come si dice in termine tecnico, tra le startup, tra gli startuppari, la exit, o meglio tra i venture capitalist, no? Esatto. Quelli che finanziano le startup e poi vogliono anche incassare. Quindi Restopolis, che tu hai fondato, e MyTable sono state acquistate da TripAdvisor, che è un player mondiale, globale, americano, che molti dei nostri ascoltatori conoscono, che già da tempo aveva costruito questo business, perché è coerente con quello che fa TripAdvisor. Diciamo, TripAdvisor è conosciuto prevalentemente per le recensioni su ristoranti, alberghi, esatto, molte altre cose, e naturalmente io ho appunto immaginato, ho detto, beh certo, è coerente con questo business, uno va, fa la recensione, oppure al contrario, uno va a guardare una recensione e poi potrebbe, esatto, in questo caso prenotare il ristorante. Già da tempo faceva questo business? Diciamo che TripAdvisor è entrato in questo business a maggio dell'anno scorso, acquistando la Fourchette, da quale poi viene anche il nome The Fork, perché comunque sotto il brand la Fourchette e il Tenedoro operiamo in Francia e in Spagna, dove siamo ovviamente assolutamente il sito francese la Fourchette. Esatto, esatto, che esiste da diversi anni, dal 2006, quindi comunque era già una realtà matura e quindi TripAdvisor è entrato in questo mercato in questo modo. E qui non si poteva fare la forchetta? Avete fatto The Fork? Ma abbiamo fatto The Fork perché sicuramente ovviamente è un servizio internazionale, quindi ci vuole comunque un brand unico. Dall'altro lato ovviamente la forza dei brand, la forchetta e il tenedor nei rispettivi paesi comunque è talmente forte che abbiamo deciso di mantenere. Senti, quando uno va su TripAdvisor e vuole prenotare un tavolo al ristorante, lo fa dentro la piattaforma TripAdvisor o viene reindirizzato su The Fork? No, è tutto perfettamente integrato, quindi da un po' di tempo su TripAdvisor si può anche fare una ricerca, un filtro per la disponibilità e poi successivamente prenotare, non si esce assolutamente da TripAdvisor, è tutto perfettamente integrato. Certo, si beneficia, si usufruisce del servizio di The Fork. Se noi pensiamo agli hotel, agli alberghi, oggi la prenotazione online è un'attività abbastanza conosciuta, abbastanza diffusa. Quindi conosciamo tante piattaforme, ci sono vari player, alcuni player si stanno addirittura presentando sul mercato, insomma c'è un business molto in fermento. Nel caso del ristorante, a che punto siamo? Ma diciamo che nel caso del ristorante siamo molto indietro rispetto ovviamente a quelli che sono gli hotel. Questo significa che anche l'opportunità è molto più grande perché dobbiamo colmare comunque un gap enorme. Si parla di 2% in Europa di prenotazione dei ristoranti via web, mentre degli hotel si parla di 60%, anche di più. Quindi questa è la strada che abbiamo da fare. Le motivazioni principalmente sono perché comunque con i ristoranti è un bel po' più complesso rispetto a un hotel, perché in una sera in un ristorante ci sono n prenotazioni diverse, ci sono n tavoli che girano, eccetera. Quindi da questo punto di vista c'è una complessità ben diversa ed è il motivo per il quale questo mercato si è sviluppato più lentamente e successivamente agli hotel. Cosa deve fare un ristoratore per entrare in una piattaforma del genere e soprattutto qual è il vantaggio? Diciamo che i vantaggi per i ristoratori nel nostro caso sono due. Da un lato la visibilità, perché noi The Fork ha 6 milioni di utenti unici mensili, ha 3 milioni di app scaricate e oltre a quello c'è TripAdvisor con i suoi numeri che sono enormi, quindi comunque gli diamo una visibilità che nessun altro è in grado di darla. Dall'altro lato per i ristoranti sempre pieni o comunque coloro che in qualche maniera ci tengono a gestire al meglio la loro clientela, gli diamo una soluzione gestionale che gli permette di profilare i clienti, di comunicare verso di loro, di gestire comunque un servizio in modo migliore, perché una volta che il ristorante è pieno e non sa più cosa fare, quello che può fare può gestire ancora meglio il proprio servizio e non rischiare insomma di perdere i propri clienti, perché insomma essendo pieno delle volte diventa anche un pochino più difficile comunque dare un servizio di qualità, e quindi lo aiutiamo questo e di conseguenza va bene un po' per tutti, ecco, non siamo nati solo per il ristorante vuoto che bisogna riempire i tavoli, siamo nati un po' per tutti. Questo è interessante, ci stai dicendo una cosa che io legherei al tema dei big data. Io sono un ristorante, non so neanche che cosa sono i big data, in realtà voi mi offrite l'opportunità di fare delle analisi sul mio pubblico, cioè se tutti venissero tramite le piattaforme di prenotazione, tu immagini un futuro, magari già oggi così, dove così come negli alberghi io posso ricevere prenotazioni da più siti, da più piattaforme? Ma allora qua o è già andati in esclusiva? Ma qua è già diverso, diciamo che un'esclusiva da un punto di vista legale non la si può fare, ma non è neanche il nostro interesse, cioè nel senso noi preferiamo vincere perché siamo più bravi degli altri, non perché diamo dei limiti agli altri. Dall'altro lato comunque ovviamente per il ristorante è un pochino più complesso gestire una cosa di questo tipo, quindi tendono comunque a lavorare con un player o comunque concentrarsi di più su un player, anche perché è difficile comunque trovare più player veramente forti sul mercato. Devo pagare se sono il ristoratore? Cioè qual è il modello di business? Il ristoratore principalmente paga una fee per ogni persona che gli portiamo. Una commissione? Sì, esatto. Tipo un euro? Mediamente il valore di un coperto varia in base al prezzo medio del ristorante, perché non facciamo pagare la stessa cifra alla pizzeria e al ristorante dove si spendono 100 euro a testa. Certo, e avete 5.000 ristoranti attualmente? Sì, però adesso sì. Lo spazio di crescita è incredibile, ma è enorme. Quanti ristoranti ci sono in Italia? In Italia ce ne sono 150.000, infatti da questo punto di vista abbiamo il mercato più interessante d'Europa, cioè abbiamo 150.000 ristoranti, quindi sia in termini di numeri di ristoranti, sia in termini di consumi nei ristoranti siamo i primi, di conseguenza anche il mio obiettivo personale è quello di far diventare l'Italia il primo paese anche per i booking online dei ristoranti. Senti, come fate a gestire l'eventuale conflitto di interesse all'interno di TripAdvisor. Poi c'è anche tutto il tema delle recensioni, magari ne parliamo brevemente. Io sono TripAdvisor, magari mi conviene far vedere, diciamo, mettere in vetrina o far trovare più facilmente alcuni ristoranti rispetto ad altri, perché magari ci sono degli accordi commerciali, che ne so, il ristorante mi paga di più quella famosa commissione, non so, immagino. Ma diciamo che né noi né TripAdvisor lavoriamo in questi termini, cioè non ci interessa chi paga di più. Comunque ci sono, nel nostro caso, degli algoritmi di ordinamento dove comunque anche le persone possono scegliere di ordinare ristoranti come gli pare. Però se andiamo a ordinarli secondo comunque una rilevanza, eccetera, diamo spazio ai ristoranti che in qualche maniera sono più richiesti da parte dell'utente. Che paghi di più o di meno non ci interessa, una cosa che si autoregola. TripAdvisor viaggia con le sue regole. Come rispondi, anche se tu non sei di TripAdvisor, però diciamo a questo punto avete un interesse forte, perché siamo la stessa famiglia. Esatto. A quelli che continuano a dire, perché il fenomeno naturalmente esiste, ma insomma io non ho mai notato problemi usandolo in tutto il mondo, usando anche altre piattaforme con grande soddisfazione, cosa rispondete voi a quelli che dicono: ah, ma ci sono un sacco di recensioni false, quindi di fatto il mercato non è cristallino? Ma allora, diciamo che comunque TripAdvisor le recensioni le controlla, e come, nel senso che ci sono sia una serie di strumenti automatici e poi ci sono 250 persone specializzate per controllare comunque le recensioni. Di conseguenza, 200 in Italia? No, 250 che controllano tutte le recensioni in generale. Nel mondo? Esatto. Okay. Però consideriamo un altro aspetto, costantemente vengono fatti i sondaggi sugli utenti di TripAdvisor, ai quali viene chiesto quanto trovano affini le recensioni che trovano con quella che è l'effettiva esperienza, e il 95% risponde che sono perfettamente affini. Sì. E la dimostrazione poi è anche il fatto che TripAdvisor continua a crescere. Allora, o le persone sono talmente stupide che continuano a insistere a utilizzare un qualche cosa che non è valido, sì, altrimenti non si spiega. Allora, io dico sempre questa cosa. È vero che laddove ci siano, non so, 4-5 recensioni, questo vale per gli alberghi, per i ristoranti, per tutto, magari uno effettivamente può fidarsi poco, ma se ce ne sono 1000 e tutti dicono che quel ristorante è un buon ristorante, direi, ma io insomma, provando appunto, non ho mai notato questo grave problema. Assolutamente. Ma ad una domanda, tu una carta di credito ce l'hai? Più di una. Ecco, lo sai che vengono clonate? Sì, ma non ho mai avuto il problema. Sì, ma c'è mai fatto, sai. Vabbè, potremmo fare mille, esatto, mille esempi di questo tipo. Senti, nel mondo ci sono molte piattaforme del genere? Cioè, quanti sono i vostri concorrenti? Ma diciamo che nel mondo ci sono ovviamente un po' di player. Per quanto riguarda l'Europa, dove noi siamo presenti, siamo indubbiamente leader, perché comunque 20.000 ristoranti, nessun altro si avvicina minimamente. E per quanto riguarda l'Italia, maggior ragione, perché 5.000 ristoranti è veramente un bel numero. Però, visto che tu ci dicevi che il mercato è molto grande, è un mercato dove ci sono ancora molte opportunità. È un mercato dove sicuramente ci sono molte, molte opportunità, assolutamente. È un mercato ricco di opportunità. Quindi nuovi player, perché vedo che che il mercato è un po' in fermento, lo è. Ma il mercato in fermento lo è, ma anche, voglio dire, il fatto che io sia qui e che parliamo di queste evoluzioni è una dimostrazione che il mercato comunque in fermento e sta evolvendo, assolutamente. Senti, voi, allora, sia Restopolis, la tua azienda, sia MyTable erano due società italiane nate in Italia. Esatto. Appunto, non le chiamiamo più startup perché da un po' di tempo eravate profitable? No, non ancora. Non eravate È un business che brucia tanta cassa, questo, quindi ci vuole un po'. Ecco, però siete stati acquisiti da questa piattaforma gigantesca americana, e qui poi c'è tutto il tema della gestione dei dati, dell'analisi che queste grandi piattaforme fanno dei dati, e io immagino un futuro dove appunto sapranno anche quando io vado e dove al ristorante, e non so se sapranno quello che mangio. Non c'è una via, non dico italiana, ma locale, cioè di player che crescono in un paese, che magari si diffondono in altri paesi, ma rimangono autonomi e non legati a queste grandi piattaforme? Ma allora, diciamo che sicuramente abbiamo un mercato un po' troppo poco maturo per una cosa del genere, però sicuramente nei settori come questo sono i tipici settori dove c'è un minimo di possibilità che nasca un player italiano che vada poi alla conquista del mondo. Io non credo che sia una cosa impossibile, perché vuol dire non è che gli italiani siano più stupidi rispetto alle altre persone nel mondo e non è che abbiano una preparazione inferiore rispetto agli altri. È proprio una questione di dinamiche del mercato, di capitale di rischio, dove comunque in Italia c'è una maturità verso questo aspetto che è ancora decisamente inferiore rispetto agli altri paesi. Inutile che ci andiamo a confrontare con la Silicon Valley, confrontiamoci con la Francia, con la Germania, con l'Inghilterra. Corretto, insomma, sì, paesi che ci sono vicini e sono decisamente più avanti da questo punto di vista. Sì. Un'ultima domanda, lato consumatore, perché dovrei prenotare il ristorante con lo smartphone? Una bella telefonata e prenoto, no? Esatto, però una bella telefonata, se cerchi di chiamarlo alle 4 di pomeriggio probabilmente non ti rispondono, certo. mentre con noi la conferma comunque è immediata, perché noi sappiamo già se c'è posto o meno. Oltre a questo, voi sapete se c'è posto alle 9:30, alle 7? Assolutamente sì, assolutamente sì. E poi l'altro aspetto, comunque noi abbiamo tantissimi ristoranti che offrono una promozione, di conseguenza si può anche risparmiare. Fra l'altro, gli sconti che offriamo sono, noi li chiamiamo sconti alla cassa, che vuol dire su tutto: mangi, bevi quello che vuoi, arrivi alla fine, paghi il conto alla cassa e spendi meno, col servizio che è esattamente identico se non anche superiore rispetto a prenotare normalmente. Oltre a questo abbiamo anche un loyalty program che praticamente premia chi utilizza frequentemente la nostra applicazione e quindi si possono ottenere anche dei buoni da consumare ai vari ristoranti. Quindi come è gratuito. Frequent flyer, come esatto, frequent esatto. Eater. Quindi il servizio è gratuito, è immediato, puoi risparmiare e ci guadagni anche. Io non vedo motivo perché non usarlo. È bravissimo Almir. Galmir, grazie per essere stato con noi. In bocca al lupo, complimenti, perché nel mondo delle startup questo è sicuramente un momento importante, e in bocca al lupo. Crepi lupo e grazie a voi. Se guardiamo al panorama internazionale, negli Stati Uniti è molto forte OpenTable, che in Europa non è mai riuscita a sfondare, se non forse in Gran Bretagna. Ci sono altre piattaforme, altri siti per prenotare, nessuno che ha queste dimensioni anche nel nostro paese. Comunque segnalateci eventualmente servizi di questo tipo. Ci sono servizi diversi che magari non servono per prenotare solo il ristorante, che ci fanno anche prenotare il ristorante, che stanno crescendo, si stanno facendo largo anche sul mercato italiano. Molti di questi servizi sono soprattutto servizi che ci offrono la possibilità magari di scoprire nuovi piatti con condivisione social, cose di questo genere. Comunque il mercato è sicuramente molto, molto interessante. E a proposito di ristoranti, è interessante, altre cose utili da sapere, l'arrivo di nuovi nomi a dominio dedicati alla ristorazione. Ce li ha segnalati register.it, che permette appunto il servizio di registrazione. Ci sono allora i .coffee, .kitchen, .pizza, .recipes, .restaurant e .catering. Quindi se io ho il ristorante, che ne so, che si chiama Da Enrico, potrei fare ristorante da Enrico .restaurant, oppure fosse a pizzeria Enrico potrei fare pizzeria Enrico .pizza. Invece che .com.it potrei scegliere questi nuovi nomi a dominio. Bene, adesso ci fermiamo per alcuni minuti. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Riprendiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Ed eccoci di nuovo, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Potete comunicare con noi anche attraverso Facebook oppure Twitter. A proposito di Twitter, è stato annunciato pochi giorni fa un accordo con Google, e tra qualche mese all'interno del motore di ricerca saranno disponibili i tweet degli utenti di Twitter. Parliamo di automobili brevemente, poi sarà con noi Stefano Quintarelli già nel nostro studio. Allora, BMW ha annunciato e pubblicato un aggiornamento software che verrà automaticamente scaricato dalle auto dotate di Connected Drive. L'aggiornamento corregge un problema che è stato scoperto pochi giorni fa, che avrebbe consentito, ma è un caso che poi non è accaduto, comunque a malintenzionati di aprire le porte dell'automobile tramite smartphone, cosa che è possibile per i proprietari di alcune macchine BMW. Allora, non si è verificato nessun caso di questo genere, la forzatura software sarebbe comunque stata un po' complicata, quindi non è che lo fa il primo che passa per la strada. Comunque questo è un problema, che un mondo che ci aspetta nel mondo delle connected cars, le auto connesse. E il problema della sicurezza è un problema che tutte le case automobilistiche stanno affrontando in modo serio, ma lo diciamo spesso, 2024, quello della sicurezza software, della security in generale, è un problema che tutte le aziende dovrebbero affrontare. Le grandi aziende lo stanno affrontando da un po' di tempo, ma su questo non c'è attenzione e gli investimenti non sono ancora adeguati. Allora, dico una cosa brevemente prima di presentarvi Stefano Quintarelli sul settore del cibo, non solo della ristorazione. Abbiamo parlato poco fa di ristorazione, c'è ancora spazio per tantissime nuove idee. Abbiamo parlato di TripAdvisor, che è un grande player globale, e sicuramente una delle forze è proprio quello di essere globale. Uno sbarca a terra in una città, accende lo smartphone e magari dice: posso chiedere consiglio, posso anche leggermi una guida della città, però trovo magari un ristorante e sfrutto il suggerimento delle altre persone. Ci sono tante altre piattaforme, c'è Yelp, che in alcuni altri paesi, più in altri paesi rispetto all'Italia, funziona molto bene, ma dicevo, c'è spazio per tantissime idee. Faccio un esempio, ma è giusto un esempio. Non solo a Milano, ma in alcune città italiane c'è un sito che si chiama The Breakfast Review. Breakfast è la colazione, effettivamente è un'esigenza anche di lavoro di molte persone, incontrarsi prima di una giornata di lavoro, fare quattro chiacchiere con un cliente, con una persona che si conosce, e ad esempio questo sito consiglia i posti dove si può far colazione, e ci sono delle recensioni fatte molto bene su i vari locali in giro per la città. È un'idea. Di idee ce ne sono tante, molte si stanno affermando, altre non si stanno affermando, ma comunque lo spazio è ancora tantissimo e le opportunità sono infinite e incredibili. E questo lo dico visto che siamo vicini a Expo, e il cibo è l'elemento fondante di questo Expo italiano, Expo 2015. Su questo magari potremo anche parlare di servizi, di idee che nascono o sono nate su internet. Stefano Quintarelli, benvenuto, meglio bentornato a 2024. Ciao Enrico, grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Stefano Quintarelli è uno dei grandi innovatori della rete internet in Italia. In questi anni parlamentare di Scelta Civica, tu sei uno dei coordinatori, uno dei fondatori dell'intergruppo innovazione all'interno del Parlamento. Noi parleremo di altro tra poco, però una cosa te la voglio chiedere su questo. È importante questo gruppo perché il primo passo per fare delle leggi pro innovazione è diffondere una cultura che mi pare non sia così diffusa in Parlamento. Assolutamente no, siamo tre informatici su un migliaio di persone tra Camera e Senato, quindi... Nell'intergruppo quanti siete? Nell'intergruppo, i membri dell'intergruppo tra Camera e Senato adesso siamo 70, e si è appena unito il senatore Orellana qualche giorno fa, e credo che nei prossimi giorni, adesso appena finito il momento istituzionale col Presidente della Repubblica, faremo un comunicato per il fatto di aver raggiunto 70 componenti, che è una cosa importante, sì, perché importante. Serve ad affrontare il tema dell'innovazione in tutte le commissioni. Con molta difficoltà, immagino. Beh, con molta difficoltà, ma anche con molta buona volontà da una grossa parte di questi 70. Diciamo che 70 è il numero delle persone sensibili, poi ci sono alcuni che lavorano più di altri per l'intergruppo, comunque diciamo svariate decine di persone che hanno a cuore il tema dell'innovazione, e considerando appunto che gli informatici, diciamo le persone con una cultura tecnica, siamo molto pochi, è una cosa molto positiva. Ci sono delle persone che hanno una cultura completamente diversa, giuridico, che si avvicinano perché comunque ritengono che la cosa sia importante. Però più in generale, se volete seguire le attività dell'intergruppo, c'è un blog a parlamentari.org, e lì c'è l'elenco dei componenti, come contattarli, riceviamo tantissime proposte, facciamo delle audizioni, facciamo tante proposte, tanti emendamenti, tanti progetti di legge e tanti anche ne fermiamo. È che è la parte che non si vede, però è una parte decisamente importante cercare di... Perché poi alle stupidaggini. Ci sono 1000 parlamentari e fino a giugno, dall'inizio della legislatura fino a giugno, avevamo fatto un conto, c'erano stati 4.800 disegni di legge presentati. Chiaramente quelli che arrivano in fondo sono meno dell'1%. Però ciò non di meno bisogna fare un po' i pompieri, ecco, l'attività di fare i pompieri è notevole, ogni tanto qualcosa scappa, ma spesso tante cose non succedono ed è un fatto positivo. Ed è un fatto bravo, sì sì, questo effettivamente non si nota ma è importante. Senti, io ti ho invitato perché da un po' di tempo che ogni tanto chiacchieriamo, ci sentiamo, tu mi dici delle cose, molte di queste sono assolutamente interessanti, alcune non si possono raccontare, non per motivi di particolare riservatezza, magari sono un po' troppo tecnico, sono particolari, però tu da un po' di tempo mi dici, o comunque dici ad altre persone anche su internet, su Twitter, eccetera, eccetera, che non usi i dati sullo smartphone come li usa la maggior parte delle persone. Innanzitutto hai uno smartphone, non voglio sapere la marca e modello, però che non è uno smartphone vero e proprio. Ma guarda, io usavo un Galaxy Samsung, quindi possiamo dirlo, poi a un certo punto si è rotto e allora ho tirato fuori un muletto e dal giorno che ho tirato fuori il muletto, che era un vecchio telefonino che mi avevano regalato, non ho più cambiato. Ho cercato di prendere uno di quei vecchi Nokia, sai, che si aprivano un po' conchiglia, no? Sì. Però purtroppo ha la rubrica limitata a 1000 numeri, per cui non mi bastava. È un po' più di 1000 numeri. Esattamente, non mi bastava, sì. Per cui alla fine ho questo telefonino che è un Android 1.0, sì. Però rigorosamente con i dati disattivati, sì. Perché? Ma intanto perché il telefono lo uso per telefonare e per mandare messaggi, e perché così la batteria dura 2-3 giorni. E poi perché se per caso qualcuno è interessato alle mie cose, beh, può farlo solo in Italia, nel senso che tutte le attività di intercettazione in Italia, nel momento in cui io disattivo la connessione dati, possono essere fatte solo dalle forze dell'ordine e solo su un mandato e solo con gli operatori italiani. Quindi diciamo, lo usi in O2G, anche in 3G, ma solo per la Lo uso in 2G. La, non so, quando sono in treno così, perché cerco di, perché aggancia le celle più lontane, sì. Normalmente lo uso in 3G perché mette a potenza più bassa, sì. Quindi per una questione di emissioni e di durata di batteria in definitiva. Sì. Beh, uno potrebbe stupirsi e dire, ma come? L'ideatore dell'Intergruppo Innovazione, una delle persone che, insomma, questo è innegabile, all'interno del Parlamento si è sempre occupato di innovazione, forse il più competente in termini di innovazione, che non usa lo smartphone come usano molti. Io oggi per venire qui, perché la strada la so, dovevo andare in un posto in città e ho usato il mio smartphone con la mappa e con le indicazioni della mappa. Sì, io per le mappe, poi ho un tablet, un 7 pollici, sì. È un tablet 7 pollici che ha una dimensione che non va molto per la maggiore, però ci sta nella tasca dei blue jeans piuttosto che nella tasca della giacca, sì. Interna, quindi lo posso portare sempre con me, quindi io ho diviso un po', invece di portarmi dietro un alimentatore, il borsello, il tablet, eccetera, ho un tablet che mi sta in tasca e un telefono che fa il telefono, punto. Sul tablet ho effettivamente strumenti per vedere le mappe. Uso OpenStreetMap per Android, Osmand, che usa mappe residenti, cosa che è molto comoda perché uno si scarica le mappe quando vado a Bruxelles, a Londra, non devo fare collegamenti dati. Per le tariffe roaming, di roaming. Sì. Ma anche e soprattutto per non raccontare proprio a tutti, insomma. Cioè non vedo perché devo dire a tutti dove sono. Ecco. Ma a tutti chi? E a tutti quelli che possono essere interessati a sapere dove vado. Ma questo, poi ci veniamo, torniamo su questo punto, ma uno potrebbe dire, vabbè, tu sei un membro del Parlamento, sei un deputato, quindi certo è un po' più comprensibile questa preoccupazione. Ma assolutamente no. È una cosa che riguarda tutti. Tutti. Cioè, io non sono... C'era tempo fa, Schmidt di Google aveva detto, se non hai niente da nascondere non devi preoccuparti, no? Io non credo che questo sia il dato, penso che il diritto alla privacy sia uno dei diritti fondamentali, non lo penso solo io, è incardinato, incastonato anche nel lato costitutivo dell'Unione Europea, quindi io ci tengo alla mia privacy, punto. Ma chi è che può guardarti, farsi gli affari tuoi e soprattutto poi con quelle informazioni che cosa ci fa? Al massimo ti mando un po' di pubblicità. Sono un po' provocatorio. Sì, al massimo mi guardo un po' di pubblicità fino al momento in cui, che ne so, magari vuole molestarmi, magari vuole assaltare casa mia, magari vuole sapere quando sono via da casa perché ha interesse nelle cose che sono a casa mia. Perché tu dici non solo le aziende che offrono servizi su internet possono accedere a quei dati, ma anche altri? Diciamo che una volta che tu hai caricato e reso disponibili in modo sistematico i tuoi dati, quante volte noi diamo accesso a delle applicazioni usando Google piuttosto che Facebook, e che ne sai di quello che fa quell'applicazione? Non è che abbiamo un modo per tenere estremamente sotto controllo, sotto un controllo fine, la fine che fanno i nostri dati. Sì. E allora dico, piuttosto chiudo. Sì, sì, recentemente una persona mi diceva, guardi che molto spesso alcuni attacchi hacker accadono perché la gente ha accettato di fornire informazioni ad un'applicazione di cui non sa nulla. Esatto. E uno dice accetta. È un problema più di Android o di altri sistemi operativi? È un problema del paradigma dominante dell'informatica, con le applicazioni che interoperano nel cloud e dove noi non abbiamo una grande visibilità del trattamento che viene fatto da questi dati, purtroppo. Questo vale anche per la posta elettronica? Servizi di posta elettronica che sono gratuiti, ma in cambio ti chiedono... Ecco, io penso che le cose che sono gratuite in realtà non sono gratuite. Noi le stiamo pagando con i nostri dati personali. Quindi c'è una linea di pensiero che vuole che i dati personali siano una currency, una valuta, per cui noi paghiamo con i nostri dati personali, che è un punto di vista molto interessante, anche perché avrebbe una serie di implicazioni antitrust non indifferenti. Comunque, tutto quello che noi diamo, in qualche modo, quante applicazioni anche attiviamo su, non so, su Gmail, cioè ci sono delle persone piuttosto che su Google Docs, e noi che cosa sappiamo dei dati che quell'applicazione... PG, ok, accetta, e i dati chissà dove vanno. Non voglio dire, c'era qualcuno che diceva solo i paranoici sopravvivono, io non mi ritengo paranoico. Io amo l'idea di internet con server che interoperano e client che si interfacciano ai server, e mi piace questa idea. Io sono nato a partire dagli anni 80 con una internet dove uno, quando voleva fare la posta elettronica, metteva su un server, usava il client che voleva, i server interoperavano, non con il modello a silos adesso, per cui tutto si svolge all'interno di una piattaforma. Ecco, io amo quel modello lì di internet prima, e mi piace smanettare, e ho il mio cloud server fatto con un cloud con il quale sincronizzo i miei dati. Utilizzo tra l'altro ho anche installato Wave, che forse ricorderai, quel sistema di editing fatto da Google, eccetera, e ho il mio Wave server personale e tendo a farmi tutte queste però cose. Uno che sta ascoltando dice, vabbè, tu sai smanettare. Uno che non ha questi strumenti, che non è capace di smanettare o che non ha nemmeno il tempo, però deve adeguarsi un po' all'andazzo corrente, usare servizi che ti vengono offerti all'interno di queste piattaforme. Beh, sicuramente è molto complicato, non è alla portata di tutti, per questo anche persone che stanno all'interno del Parlamento ogni tanto fanno delle proposte per cercare di aumentare il livello di garanzia nei confronti degli utenti. Tu prima accennavi alla posta elettronica. La posta elettronica, esistono numerose alternative. Io, per esempio, per la mia posta elettronica utilizzo un servizio a pagamento fatto da un mio amico che ha un servizio di mail commerciale in Italia, IMAP SMTP come protocolli. Lo uso con il client Thunderbird, che funziona benissimo, Aquamail sul tablet, e lo uso come servizio commerciale. Dal punto di vista dell'editing dei documenti collaborativi, quindi Google Docs, c'è un'alternativa abbastanza costosa che è Zoho Docs. Comunque, diciamo, alternative ci sono un po' per tutto, ci sono anche alternative gratuite, non tra quelle mainstream, non tra quelle più popolari e diffuse. Sì. Certo, si complica un po' la vita, è quella complicazione in più, che non è una complicazione eccessiva, comunque un pochino di complicazione in più, che è per il mio costo per mantenere un livello di privacy che io giudico sufficiente e adeguato. Senti, è un piacere quando vai sui profili e vedi che non sanno niente di te, non sanno come profilarti con la pubblicità, è una soddisfazione. Sì, secondo te c'è una strada commerciale per offrire questi servizi? Ah, ce ne sono tantissime. Cioè, di un'azienda che dice, guarda, io ti vendo, perché chiaramente se io non scambio, se la mia moneta non sono i dati personali, devo spendere soldi, però una quantità di denaro limitata ogni mese, e ti do spazio in cloud, la posta elettronica, eccetera, eccetera, però ti garantisco che è tutto protetto, sicuro e tranquillo. Sì, adesso non faccio pubblicità a un'azienda che offre servizi commercialmente in Italia, quindi lo posso dire, però ci sono delle vie di intermediazione rispetto a questi servizi, no? Ci sono dei sistemi che consentono, io come browser uso Firefox. Anch'io. E ho tutta una serie di plugin che mi consentono di evitare i tracker, cioè quelle cose che servono per tracciare gli utenti piuttosto che cancellano i cookies. Utilizzo un gestore di password crittografate, per cui tanti servizi io non so nemmeno quali password ho, perché è il mio sistema di password che le dà. Sì. C'è un servizio molto carino che funziona molto bene negli Stati Uniti, adesso si sta allargando, fatto da un mio amico di Boston, che l'azienda si chiama Abine e il servizio si chiama Blur, B-L-U-R. Uh-huh. E questo per esempio consente di registrarsi ai siti usando degli indirizzi di posta mascherati, per cui viene presentato un indirizzo di mail. Quando ti registri su un sito che ti chiede un indirizzo di mail, lui propone un indirizzo di mail che è cg.xf@cluff.net, per esempio, una cosa a caso. E per cui di là ogni servizio che tu usi ha sempre identificativi diversi e solo tu sai quali sono, attraverso questo tool, gli indirizzi che stai effettivamente usando. Diciamo che la sensibilità nei confronti della privacy sta aumentando molto e stanno nascendo servizi commerciali di tutela della privacy. Quindi ci si può fare business su questo? Sì, aumenterà. State all'occhio su Abine, perché sarà Interessante. Bel deal. Tu sai che poi molti ascoltatori mi scriveranno e mi chiederanno: ma quali sono tutti questi servizi? Non so se esiste una lista tua pubblicata. No, avevo scritto una lista, più riprese ogni tanto io sul mio blog, ogni tanto scrivo quali sono i tool che uso. Lo sanno i tuoi colleghi dell'Intergruppo Innovazione? Ah, mi prendono in giro tantissimo, non solo quelli dell'Intergruppo, c'è chi vuole fare una colletta per regalarmi uno smartphone, io non voglio lo smartphone. C'è chi, alla fine anche in un gruppo di lavoro, ha consentito di usare, anche su una cosa che per me forse era meglio non farlo, usare strumenti di editing collaborativo. Ci ho detto, cioè, dipende dal livello di cose, non so, noi per coordinarci usiamo Google Docs, no? Abbiamo un elenco condiviso, le proposte di legge eccetera le facciamo tutte scrivendo su Google Docs, ma queste sono cose che non hanno nessun tipo di rilevanza di riservatezza, perché sono cose che per definizione diventano pubbliche. Sì. Quindi ti faccio un'ultima domanda. Stiamo parlando di dati personali che possono utilizzare le aziende o qualche malintenzionato che riesce a mettere le mani in modo fraudolento su questi dati. Nei confronti dei servizi segreti, National Security Agency americana in primis, non c'è quasi nulla da fare. Cioè, quelli, se vogliono, ma le allora, mani... La sicurezza non esiste, no? La sicurezza assoluta non esiste. Sì, si parla di rischio e di mitigazione del rischio. Esistono delle tecniche per mitigare il rischio di essere intercettati, intercettabili, seguibili, sì, eccetera. La certezza totale non esiste. Tema molto complicato, sì. Bisognerebbe dedicare una puntata intera sui tool. La facciamo, cerchiamo di farla, cercando di essere poi comprensibili, perché quando tocchiamo questi temi diventiamo un po' complicati. Senti, in bocca al lupo, perché l'Intergruppo Innovazione deve, anche se non c'è bisogno dell'esame per entrare... No, ma fa tante cose, ripeto, le cose più divertenti sono quelle che non si vedono. Quando non arriva una norma, c'è da brindare. Ogni mattino che ti svegli e dici non è successo niente, sii contento. Vista la situazione. Grazie Stefano Quintarelli, a presto. Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori. 2024. Questa è l'ultima parte del nostro programma, adesso parliamo di realtà virtuale. Allora, questo è un tema di cui si parla da tantissimo tempo. Negli ultimi anni se ne sta parlando perché sono nate delle proposte, molte di queste per il momento sono solo delle proposte, non sono ancora prodotti commerciali, proposte molto affascinanti, delle sorte di visori che noi ci mettiamo in testa, che ci permettono tramite degli accelerometri e altri sensori di muovere la testa e muovere anche il corpo e vedere all'interno di questo visore, nel display interno di questo visore, il mondo virtuale, un qualsiasi panorama virtuale che viene riprodotto, muoversi rispondendo quindi alle sollecitazioni, ai movimenti che noi facciamo. Allora, Oculus Rift è la società che è stata acquisita da Facebook, più nota in questo settore, ma da molto tempo si attende l'uscita sul mercato del visore di Oculus. Per il momento è solo un prodotto disponibile per alcuni sviluppatori e tutti si chiedono ogni anno al Consumer Electronics Show, l'anno scorso, quest'anno, tutti domandano: ma quando fate uscire il prodotto? Vedremo, un po' di tempo fa dicevano questione di mesi, qua sta diventando questione di anni. Comunque la prossima settimana uscirà sul mercato Samsung Gear VR, che sta per Virtual Reality, realtà virtuale. È un accessorio per uno smartphone. Lo ha provato, anche perché li ha provati tutti, quando si parla di realtà virtuale le ha proprio provate tutte, Roberto Pezzali, che lavora alla redazione di dday.it. Beh, è una maschera, sembra una maschera da snowboard, una maschera che si indossa e ovviamente cambia quello che noi vediamo. Lo indossiamo, lo schermo ci trasmette un'idea di realtà. Chi si ricorda, per esempio, i visori, quelli fatti da Sony, si indossavano e si vedeva all'interno, per esempio, uno schermo da cinema. L'area periferica dell'occhio era nera. Qua invece lo si indossa e praticamente si vede come se stesse vedendo la realtà. Quindi siamo in montagna, giriamo la testa e vediamo le montagne attorno a noi. Possiamo anche girarci di 360 gradi, guardare dietro quello che c'è. Proprio una visione, una replicazione della realtà, appunto realtà virtuale. Quindi è davvero il primo esempio, dopo tanti anni, di realtà virtuale vera, fatto con un visore. Allora, ricordiamo che stiamo parlando di un accessorio per smartphone, perché il prodotto è appunto una sorta di visore e lo schermo è di fatto lo smartphone che noi dobbiamo mettere proprio in testa a questo visore. Vale con tutti gli smartphone o ci vuole uno smartphone specifico? Ma allora, l'idea credo che è stata una cosa abbastanza curiosa, perché Oculus, che è quello che ha rilanciato questa la sta rilanciando da anni, sta lavorando a questa nuova tecnologia di realtà virtuale. Però non è ancora uscito il vero prodotto di Oculus. Sono usciti due developer kit, ovvero per gli sviluppatori, per fare delle app. In realtà la realtà virtuale ha già floppato tante di quelle volte che Oculus vuole essere sicura che davvero questa volta sia quella buona, perché le basi ci sono tutte e ovviamente un lancio affrettato, la gente lo prova, dice ma questa cosa non mi convince e non la compro, ed è la peggiore pubblicità per un prodotto. Quindi loro vogliono far veramente provare un prodotto con le sue applicazioni e quando l'hardware e la qualità è accettabile, ovviamente. E dicevo, è curiosa la cosa, perché Oculus aveva bisogno di un display ad alta risoluzione e il display più alta risoluzione con una latenza bassissima, perché ovviamente quando noi muoviamo la testa velocemente per guardare in questo mondo virtuale le immagini, abbiamo bisogno di non vedere le scie, perché le scie nella realtà non ci sono, dan fastidio, no? E quindi il display perfetto era l'OLED. L'OLED risoluto, chi è che l'ha fatto? Samsung. Si sono parlati e Oculus nel suo kit ha messo dentro un display di un Galaxy Note 4. Samsung ha sfruttato l'occasione, si è parlato con Oculus e ha detto: ma perché non usiamo proprio il Note 4 come oggetto che fa sia da schermo sia da cervello? Ed è nata l'idea di fare appunto questo adattatore, questo Gear VR, che non è altro che una maschera all'interno del quale si inserisce e si incastra il Note 4. E fa tutto lui, fa da schermo e fa anche da intelligenza, diciamo, per gestire appunto questi calcoli che non sono banali. Perché uno dei motivi per cui Oculus ancora non è sul mercato è che il developer kit necessita di una tanta potenza, necessita di computer comunque da gaming di un certo livello per gestire tutta questa immagine elaborata in 3D in tempo reale. E diciamo, il Note 4 nel suo piccolo, nonostante sia uno smartphone, riusciva a dare esattamente queste cose. Un prodotto quindi con la stessa tecnologia Oculus, con lo stesso schermo OLED che c'è dentro un Oculus, e quindi alla fine non è un surrogato, è un prodotto vero licenziato Oculus che dà un'ottima resa davvero. Adesso ti chiedo che cosa si vede e che cosa ce ne facciamo. Allora, se ho capito, io compro questo prodotto che costa a partire da 199 euro, poi ci devo infilare il mio smartphone, quindi devo avere uno smartphone di questo genere, solo il Note 4. Dopodiché che cosa ci faccio? Abbiamo detto che è un prodotto per la realtà virtuale, quindi ho davanti uno schermo immersivo, mi immergo in una realtà virtuale, tipo ad esempio? Tipo lo agganciamo, lui si accende e abbiamo una sorta di interfaccia alla Minority Report, che navighiamo semplicemente spostando la testa e guardando. Quindi se guardiamo a destra vediamo le applicazioni che sono virtualmente posizionate a destra, quindi abbiamo davanti a noi questa enorme interfaccia e con un piccolo bottoncino sul lato andiamo a selezionare le applicazioni che vogliamo, che sono installate sullo smartphone. C'è un'app che si chiama Oculus, è un'app che racchiude un piccolo store di applicazioni, giochi e experience fatte apposta per la realtà virtuale. Ce ne sono molte, si possono scaricare per esempio un concerto, ci sono una visita guidata all'interno di un canyon dove ti puoi guardare attorno e vedere appunto le meraviglie della natura. C'è un bellissimo spettacolo del Cirque du Soleil addirittura, quindi sei seduto in prima fila in mezzo agli attori, ti guardi attorno, vedi sti ginnasti che si librano nell'aria e sembra di essere veramente lì che stai guardando questo meraviglioso spettacolo. Ovviamente i contenuti devono ancora arrivare, perché elaborare un contenuto di questo tipo non è facile, anche fare una ripresa a 360 gradi di un concerto live lo fanno mettendo insieme tante GoPro in una sorta di cubo e riprendono praticamente attorno, perché tu devi avere praticamente una visione di tutto ciò che avviene attorno a un punto preciso, quindi dove sei seduto te, e non è facile farlo, e quindi stanno arrivando questi contenuti. Già ce ne sono, comunque penso che ci siano una quarantina di applicazioni già presenti da scaricare, però non si limita al solo VR, nel senso si può utilizzare anche come visore per il cinema. Questo è bene dirlo, perché ovviamente la realtà virtuale adesso sta arrivando, però ci sono un sacco di contenuti video e quello lì è un visore che ci permette anche di essere al cinema. Quindi si può lanciare un'app chiamata Cinema, Gallery Cinema, che ci permette di vedere quindi foto fatte da noi e anche video seduti su una poltrona del cinema. È simpatico perché ti guardi attorno e vedi le altre persone sedute di fianco a te come se sei al cinema, no? Puoi anche, penso, cambiare le scene del cinema, quindi cinema moderno, cinema IMAX, cinema antico, e vedi su questo schermo davanti a te la proiezione del film. Ti guardi attorno, ti muovi, lei si muove mentre non sta ben fissa, però sei al cinema. Quindi... Senti, io ho provato dei prodotti del genere molto meno di te, che ne hai provati tantissimi. Direi quasi tutti quelli che ci sono sul mercato, mi sembra che la definizione dello schermo sia ancora un po' carente, è vero? Beh, quello forse è il punto debole ancora di questi. I passi avanti si sono fatti, perché dal primo che avevo provato io, dal primo Oculus, è stato migliorato tantissimo, sia per la riduzione delle scie che danno fastidio, provano un senso di nausea, sia per la risoluzione stessa che comunque si vede. Dobbiamo sempre pensare che abbiamo davanti i nostri occhi, per farlo funzionare, due lenti in ingrandimento che puntano su uno schermo per smartphone, e quindi è come se vediamo uno schermo per smartphone un lente in ingrandimento. I pixel, i puntini, si vedono. Non tantissimo, però si vedono. Non pensate di guardare, diciamo, un'immagine compatta, bella, come la realtà, assolutamente no. Sì, come un display tradizionale. Ricordiamo che queste lenti servono per dare questa sensazione immersiva. Queste lenti servono proprio per far vedere all'occhio l'immagine completa, senza neanche uno spazio vuoto. E questo ingrandimento qua è quello che appunto provoca questa caduta di risoluzione, che ovviamente ancora si percepisce, ma d'altra parte è un po' un gioco. Al aumenti la risoluzione, serve ancora più potenza. E più potenza, schermo più risoluto, consuma più batteria, quindi anche per uno smartphone sarebbe un po' complesso, diciamo, per ora. Però devo dire che il risultato ottenuto da Samsung è un ottimo bilanciamento tra diciamo, sensazione e emozioni provate quando lo si guarda, e risoluzione comunque non è bassissima. Certo, si potrebbe avere di più, però diciamo è un giusto equilibrio, l'hanno fatto uscire al momento giusto per avere una buona sensazione e per non dire ma questa cosa non mi piace, perché chi lo prova sono sicuro che veramente dice wow, è fantastico. Poi si può provare nei negozi anche adesso, perché penso che la settimana prossima sarà nei negozi, quindi io invito veramente tutti a provarlo, perché è una cosa veramente nuova. Una delle poche cose nuove che abbiamo visto negli ultimi anni nel mondo della tecnologia, forse questa. Si può anche giocare, naturalmente? Sì, certo, ci sono i giochi, anche perché comunque lui all'interno c'ha un giroscopio. Il giroscopio vuol dire che prende e controlla i movimenti della nostra testa, perché quando noi ci giriamo l'immagine dentro si deve girare anche lei. Quindi sono anche dei giochi, come per esempio Evita i missili, Spostati, sono dei giochetti anche carini, e addirittura nel kit, quello da 249€, ti danno anche un gamepad, perché ci sono dei giochi fatti apposta, gli FPS, i tipici giochi dove tu in prima persona spari a mostri, alieni, così, sono ovviamente il classico esempio perfetto per giocare a questo tipo di experience. Se cammini, si sposta la realtà o devi rimanere seduto? Perché questo è uno dei grandi problemi dei visori a realtà virtuale. No, in realtà tu sei seduto in un punto e rimani lì seduto in un punto. Se cammini, sei sempre virtualmente nello stesso punto, perché non hai, avresti bisogno di un tracker esterno per muoverti. In realtà quello di Oculus, il vero Oculus, ha un head tracking, ti misura il movimento della testa, quindi lui capisce se stai andando in avanti o indietro, e puoi fare per esempio delle mosse come guardo dentro una scatola, ed effettivamente sporgendo in avanti e facendo con la testa il gesto di guardare dentro, tu all'interno hai la sensazione di andare a guardare dentro uno scatolo, oppure di andare a vedere più da vicino un oggetto. Però anche lì non è vero movimento, infatti stanno facendo delle pedane. A Las Vegas c'era una pedana, una sorta di tapirulan per il gioco, dove corri e ti muovi su quello, perché e devi essere anche ben imbragato, perché è anche pericoloso, cioè tu hai su un visore, quindi non sai quello che c'è attorno a te. Sì, cioè, se non avessi la pedana e fai la stessa cosa in casa, ad un certo punto ti sbatti la testa contro la parete, no? Esatto, proprio quello. Quindi diciamo, sei in un'altra realtà e devi stare il più fermo possibile nella tua, perché sennò c'è un impatto tra realtà che potrebbe anche farti male, perché non vedi assolutamente quello. Quindi seduti e comodi è la cosa migliore, anche perché dico di provarlo. Io personalmente, dopo 15 minuti che lo provavo, ho avvertito un leggero senso di nausea, un po' come quando si guardava la prima volta il 3D. Non so se dopo un po', diciamo con l'abitudine, la cosa passa, però credo che sia anche molto soggettivo. Ci sono persone che lo sopportano tantissimo e dicono oh, wow, che bello, io posso andare avanti ora a guardare così. Magari c'è invece persone un pochino più sensibili, è proprio al refresh e al tipo di visione, che comunque è stereoscopica dentro perché è un 3D, e dopo una decina di minuti dicono no, meglio fare una pausa magari e andarci calmi, perché sento un po' questo giramento di testa. E questa era la voce di Roberto Pezzali della redazione del magazine digitale dday.it, che ha provato recentemente i Samsung Gear VR Virtual Reality, che saranno appunto disponibili sul mercato italiano dalla prossima settimana. Sicuramente è un assaggio di quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ma vedremo se non si tratterà dell'ennesimo flop, di un altro flop della realtà virtuale, perché comunque rimane il problema dell'utilizzo di questi sistemi, e molto dipenderà anche dalle applicazioni che verranno create. Non è un caso, come dicevamo, che Oculus è ancora chiuso nei laboratori e negli uffici, negli studi dei progettisti di applicazioni, perché molto dipenderà appunto se ci saranno delle applicazioni utili. Il rischio è che uno si diverta un sacco per un giorno, due giorni, e poi si stanchi. Negli Stati Uniti c'è chi mi diceva una delle cose più belle del Gear VR, tra quelli che lo avevano provato, la cosa più divertente del Gear VR è di far vedere il Gear VR agli amici, come è successo con altri strumenti. Vedremo, comunque molto molto interessante. Probabilmente ci saranno delle applicazioni non solo per questo prodotto. Questo effettivamente è un prodotto che funziona, abbiamo detto, solo con il Note 4. Tra l'altro non è che ne sono stati venduti tantissimi, alcuni milioni nel mondo, ma non stiamo parlando di uno smartphone come altri di grande successo, quindi insomma sarà sicuramente un po' limitato. Ma altri prodotti che hanno integrato un display probabilmente verranno utilizzati molto in applicazioni specifiche nel mondo del lavoro, ad esempio in fase di training per alcuni settori. Insomma, anche in questo caso bisogna creare un mondo, e poi probabilmente bisognerà aspettare ancora qualche tempo per avere processori più potenti per far sì che questi visori possano essere utilizzati in maniera anche indipendente da un computer molto potente. Come dicevamo, Oculus attualmente richiede macchine molto potenti per riprodurre questa realtà virtuale. Bene, tutto per questa puntata. Questa è la versione podcast del nostro programma. Come sempre vi ringraziamo per averci ascoltato in questa modalità. Per quelli che invece possono o vogliono ascoltarci in versione tradizionale, in FM, digital radio e anche in streaming, andiamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, la domenica tra le 13.05 e le 13.30. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, quindi 2024, è radio24.it. Possiamo sentirci anche via Facebook o via Twitter. E ci risentiamo qui a 2024, la prossima settimana. 2024. 2024. 31 seconds and we're